Benvenuti e benvenute a tutti quanti. Se state ascoltando questa voce è perché siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 e questo è Tracce di Cinema. Sono qui con David e Federico, come ogni giovedì dalle 15 alle 16 ascolterete musica e sentirete qualche notizia su il nostro film in questione, che oggi è Lola Corre. E volevo ringraziare David per averci dato questa idea dopo che avevamo attraversato la musica rock anni 60. Abbiamo pensato di navigare un po' in acque contemporanee. Questo film ci sembrava la forma più giusta per farlo, visto che è un film che ha una colonna sonora completamente techno, e poi ve ne parleremo più in là. Intanto vi dico che è stato un film girato nel 1998 dal regista Tom Twyker e ha una trama abbastanza scheletrica ma lineare, nel senso che Lola è una punk che ha una ventina di minuti di tempo per aiutare Manny, il suo fidanzato, a pagare un debito contratto con un boss della malavita, e Lola inizia a correre nel film, e la sua ricerca affannosa dei soldi diventa una gara di velocità simile ad un videogioco di ultima generazione. Gli inserti e i disegni animati suggeriscono anche proprio questa immagine. E sono tre gli episodi che vedono Lola industriarsi per trovare questa somma, che sono 100.000 marchi, circa 50.000 euro di oggi. E così Lola vive tre vite parallele, ma due episodi della sua vita su tre non hanno un esito positivo. L'ultimo finalmente ha l'effetto sospirato. La casualità gioca un ruolo fondamentale in questo film, ed è la stessa casualità che determina i due esiti tragici e l'unico felice. La morale, se c'è, beh, che forse il caso decide la vita di ognuno di noi. Più misteriosa del nostro pianeta. Un mistero pieno di domande irrisolte. Chi siamo? Da dove veniamo? Dove stiamo andando? Come facciamo a sapere quello che crediamo di sapere? Soprattutto, perché crediamo? Innumerevoli domande che cercano una risposta. Una risposta che genera una nuova domanda. E la risposta successiva di nuovo un'altra domanda, e così via. E così via. Ma in fondo non è sempre la stessa domanda. E non è sempre la stessa risposta. La palla è rotonda. Il gioco dura 90 minuti. In cui tutto è chiaro. Tutto il resto è teoria. Cominciamo. E abbiamo appena ascoltato il pezzo introduttivo del film Lola Corre, musica techno decisamente. Diciamo, è la prima volta che in un film c'è una struttura musicale techno non composta prima, ma fatta apposta per il film. Infatti la musica è stata composta dal regista stesso, Tom Tykwer, da Johnny Klimek e Reinhold Hale, questi famosissimi. Come fate a non conoscerli? Certo. Comunque hanno suonato con Nina Hagen questi due, in particolare Johnny Klimek è stato il tastierista di Nina Hagen. Volevo chiederti, David, allora per questa terza puntata ci eravamo orientati già su un altro paio di titoli, poi è uscita fuori questa scelta Lola Corre. Perché, David, cosa era che ti ha spinto a lanciare l'idea? Proprio il fatto che è stata composta apposta per il film e che la musica techno è comunque carina, che molte persone non lo conoscono il film, non è un film conosciutissimo, comunque magari è stato anche molto criticato. Insomma, il successo internazionale di Lola Corre, girato in soli 2 mesi nel giugno del 97 con un budget di circa 3.500 marchi tedeschi, ha venduto, per quanto riguarda la colonna sonora, molte copie, insomma. Diciamo la versione tecno teutonica di Sliding Doors un po'. No, non è così. No. Il principio è quello. Non è così, siamo lontani proprio una distanza che c'è l'oceano che li separa. Quindi sono molto lontani. No, però insomma, è un piccolo film, è quasi un video musicale, stavamo ragionando prima con David, no? Perché comunque è fatto di una storia che si ripete e che va velocissima nelle sue sequenze, no? Questa base musicale che sale sempre di più. Sì. In alcune canzoni ci stanno dei testi dell'attrice principale, cioè Franca Potente, e che ci ha cantato sopra. Sì. Parte di origini italiane. I pezzi cantati da Franca Potente sono Believe, che ascolteremo, e Wish, che è un altro pezzo. E una cosa interessante della colonna sonora è che è stranamente ripetitiva, nel senso che comunque i pezzi sono fondamentalmente 4. Però si ripetono con diverse sonorità e arrangiamenti, però diciamo che la radice sono quei 4 pezzi. Certo che ti amo. Come fai a esserne sicuro? Perché ne so io. Lo sono e basta. Ma io potrei essere anche un'altra. No, no. Perché no? Perché tu sei il massimo. Il massimo in che senso? Il massimo delle donne. Tra tutte e tutte le donne? Ma certo. E tu come fai a dirlo? Perché lo so e basta. Tu credi che sia così? D'accordo. Io credo che sia così. Eccolo, vedi. Cosa? Tu non ne sei sicuro. We'll be right back. tua Tykwer, Tykwer, chiamiamolo in diversi modi, Tykwer. Regista e autore della colonna sonora, ha iniziato a 11 anni i suoi primi filmini in Super 8. E analogamente al nostro Nanni Moretti, ha rilevato come direttore e programmatore il cinema a movimento a Berlino e ha girato contemporaneamente una serie di ritratti per la televisione sugli autori che ama, per esempio il finlandese Aki Kaurismäki, il tedesco Wim Wenders e l'inglese Peter Greenaway, e il danese era Lars von Trier. E dopo aver diretto alcuni cortometraggi, ha debuttato nel 93 col suo primo lungometraggio, dal titolo La mortale Maria, seguito da Sognatori d'inverno, e conosce la sua vera la fama internazionale girando Lola Corre. Nel 94 fonda una casa di produzione chiamata X Film e nel 2002 la Miramax produce il suo film intitolato Even, basato su una sceneggiatura del regista polacco Kieslowski e girato tra Torino e la Toscana. Nel 2006 dirige un colossal a Federico, Profumo. Io quando l'ho letto sono rimasta stupita, perché cioè da Lola Corre a Profumo ne è passata di acqua, A Civecchia, poi dopo è scomparso comunque, perché non se ne ha più traccia di del nostro Tykwer. Chissà che fine ha fatto. Forse ha fatto una brutta fine, perché nei film girati in Italia, Even e The International, vengono criticati aspramente i carabinieri e i vertici di polizia, i quali sono descritti, li descrive lui, ma poi voi traete le vostre conclusioni, insomma, e le vostre idee, sono descritti infatti come corrotti e insomma dei brutti ceffi che fanno parte di questa nostra società. Ascoltami, se ti dicessi che ho bisogno del tuo aiuto, ne ho così tanto bisogno come mai mi è successo nella vita, e che tu sei l'unico che può aiutarmi, mi aiuteresti? Hai un aspetto orribile. Allora mi aiuti? Vuoi dirmi cos'è successo? Adesso non ho tempo per spiegartelo, è una storia troppo lunga. Allora cosa mi succede? Aiuti? Vuoi spiegarmi? Mi servono subito 100.000 marchi. Cosa? Mi servono 100.000 marchi sull'unghia. Entro 5 minuti, se no... Se no cosa? Se no succede una cosa terribile. Io non ci capisco più niente. Ma che razza di giornata è oggi? Papà, ti prego, devi aiutarmi, è importante, ti prego. Io non ce li ho 100.000 marchi. La mia assicurazione sulla vita, mi hai detto che ne avevi fatta una. E con questo? Non è mica di 100.000 marchi. Papà, ti prego, è una cosa seria, non è uno scherzo. A me invece sembra uno scherzo, non può che essere uno scherzo, non fai successo. Se tu non mi aiuti, qualcuno morirà. Ma chi è che morirà? Manni! Manni, e chi è Manni? È il mio ragazzo, stiamo insieme da più di un anno! Io non lo conosco, perché dovrebbe morire se io... Non importa! I will. Oh David, questo era il pezzo più bello secondo te? Decisamente sì, dove infatti canta Franca Potente, è il tema principale del film, non c'è neanche la cassa fissa. Pronto? Questo ci introduce, lo sentiamo già in sottofondo con il suo pronto, Maurizio Di Rienzo, ospite di questa settimana. Ciao Maurizio. Ciao, buonasera, solo che vi sento lontani, forse ho sbagliato a non darvi un numero fisso perché spero che la comunicazione, la voce vi arrivi chiaro. A noi arriva tutto chiaro. Ah, vabbè, perfetto, farò lo sforzo io col mio debole auricolare, okay. Eccomi qui, buongiorno. Buon pomeriggio. Allora, allora abbiamo scelto Lola Corre per questa settimana. Maurizio, abbiamo detto anche andiamo a ruota libera rispetto a rispetto ai ricordi che hai di questo film e anche qualche notizia magari sul percorso del regista o qualcosa sulla colonna sonora di cui stiamo un po' parlando. Sì, visto che voi siete al battesimo quasi di una bella idea, perché legare la musica non scritta per il cinema, scritta col cinema, oserei dire indipendentemente dal cinema, è fondamentale, quindi avete fatto bene a trovare questo connubio in cui la radio poi è il mezzo più logico per poterne parlare. Allora, che si può dire? Lola Corre. Corse molto questo film perché in realtà è andato in tanti paesi, in Italia uscì quasi subito perché sono andato a riguardare, sì, nell'autunno del 98, pochi mesi dopo essere uscito in Germania per primo ovviamente, e via via poi è uscito negli altri paesi, è stato un ottimo successo anche in America, ha fatto una decina di milioni di dollari, mi pare che salvò la società di Tom Tykwer e degli altri suoi soci che stavano fallendo dopo qualche anno di produzione di film d'autori relativamente poco di impatto, però... La X Film era la casa di produzione, se non sbaglio. Quale la? X Film. Sì, la X Film. Sì, bravi, perfetto, X Film. Sento una voce non tedesca ma italiana, non maschile ma finalmente femminile, perché parla sempre con Federico Raboni, ragazzi, è dura, ce la si fa. E quindi scherzo, bene, buongiorno, ciao. sì, hai ragione, l'ex film. Dunque, sulla colonna sonora non so se abbiate già detto voi cosa ne pensiate. Vi giro una domanda: secondo voi il film è stato sottovalutato o sopravvalutato? Perché fra Un innamoramento americano, addirittura ha preso dei premi per la colonna sonora e poi ha preso addirittura premio personale, guardare l'anno dopo nel 2000 addirittura al Sundance, e poi ha preso anche un Independent Spirit Award, quei premi che si hanno la sera prima degli Oscar, che hanno il loro significato sempre di più, eccetera eccetera. Quindi insomma, cosa pensate di questo, di questa operazione di 80 minuti molto metronomica, molto musicale, molto new Deutsch? Allora, io inizio trasmissione, l'ho definita la versione tecno teutonica di Sliding Doors. Ah, vabbè, sì, ma non mi sai, Sliding Doors era prima o dopo? No, era appena dopo, non mi ricordo. Però sì, era dopo. Era dopo, ok. No, evidentemente qua c'è un misto davvero particolare di pseudo new wave tedesca, ma anche techno, ma siamo dopo i Kraftwerk e dopo una serie di altri gruppi eccetera, e c'è anche qualcosa di classico. Diciamo che la colonna sonora, per quello che ricordo, andando a spulciare un paio di brani anche online prima, insomma mi sembra di poter dire che fosse una strana, come una corsa appunto, quando tu inizi corri, magari se devi correre tanto corri relativamente piano, poi hai un tuo standard e poi disperatamente quando il fiato ti manca acceleri. Insomma, io credo che fosse una colonna sonora di cambiamento, perché oltretutto era anche un film che arrivava dopo un po' di anni bassi del cinema tedesco, che aveva perso i suoi grandi maestri, che è inutile che rinominiamo, da Wenders a Kluge, da Herzog a Schlöndorff, che erano andati altrove dopo Fassbinder era morto nel 1900, dopo gli anni 70, inizio 80, e quindi Tykwer si fece notare. Sì, il nuovo cinema tedesco arrancava in quegli anni, insomma. Infatti era diventato vecchio e più che arrancare, Franca Potente, dato il cognome, che insomma qualche avo italiano ce l'aveva, ha fatto un'interpretazione nomen potente, non era manco una battuta, è proprio una logica. E qui c'era questo Moritz Bleibtreu, grande attore secondo me, che ogni tanto spunta e parla anche bene italiano in film turchi, in film di Fatih Akin, inglesi, in film qualche volta anche Franca Potente e Maurice sono stati insieme nelle particelle elementari anche, no? Sì, stavo ricordando Houellebecq, perché poi in questi giorni di Houellebecq se ne parla, no? Sì. Oltretutto di questo strano personaggio, di questo scrittore da cui è stato tratto il cioè del suo film, insomma, delle particelle elementari, sì, Blythe Troy. E non so, ma per la musica, però io penso di avere una sensazione proprio di musica incessante e anche, se vuoi, un po' spudoratamente esibita, però non è che ricordavo bene certi passaggi. In ogni caso ci sono più forme musicali che vengono messe in campo, e tutto sommato il mix ha quel po' di pop e di semi pseudo avanguardistico che funzionava. Oh, parte della critica sicuramente lo definiva un videoclip, e diciamo che all'epoca, poi insomma stiamo parlando di un po' di anni fa, e anch'io che ti sto parlando ero un po' più giovane, e quindi in quegli anni fu di forte impatto. Lola Corre piacque molto, però rivedendolo oggi, io l'ho rivisto l'altra sera proprio per preparare la trasmissione, devo dire che sì, sicuramente è un film sopravvalutato, e è un po' gracilino poi se vai a studiartelo, insomma, anche a godertelo cinematograficamente. Sì, non so, pensa, però io credo che fosse un film fatto veramente, quasi non dico per disperazione, però in grande velocità, è il caso di dire, sì. Girato e poi proposto quasi come una sorta di fuga da una serie di generi cinematografici, mettendoli insieme alcuni. Quello che è molto bello è la Berlino che si vede, perché bene o male è una sorta di carrellata lungo quei quartieri di Mitte, Friedrichstrasse, anche Unter den Linden, quelle zone lì, insomma, Kreuzberg, anche, insomma, la Berlino attorno al festival, come si poi è sviluppata negli ultimi decenni dopo la caduta del muro, e è una Berlino anche poco abitata in quello che si vede nel film. Forse hai ragione, sì, ma all'epoca, magari poi appena dopo invece esplose, perché sì, proprio col 2000-2002, insomma, mi ricordo, quella fu messo definitivamente a posto tutto quel quartiere. Però insomma è una Berlino molto bella, e quanto alla musica conta anche la città, secondo me in Italia pure andò abbastanza bene. Sì. E beh, è il film che l'ha fatto conoscere a livello internazionale, soprattutto poi in Italia. Che ha fatto conoscere tanti questi. Poi bisogna girare una sorta di strano film che sembrava promettere molto e non mantenne granché, che era Heaven, vero, qualche anno dopo. Sì. E poi l'autore di Profumo anche. È Profumo, sì, ma poi Heaven prima in Toscana. Sì. E mi pare a Torino la sceneggiatore di Kieslowski, e poi Profumo, ma aiutami, non era la Suskind, ok, ma non era Dustin Hoffman in Profumo? No, sbaglio. No, mi sembra di no. Mi piace sbagliare. Senti, ma no. Maurizio, invece ti volevo dire, perché noi facciamo questa trasmissione, diciamo, basandoci sul fatto di trovare un film e una colonna sonora che comunque tra i quali insomma ci sia una commissione forte, ecco, magari anche parlando di un film che non è proprio che non fa la storia del cinema internazionale, ma che comunque ha lasciato una traccia a livello emotivo anche, no? Sugli spettatori e sulle persone che lo hanno visto e che hanno sentito la sua colonna sonora. Ecco, secondo me Lola Corre è uno di quegli esempi, nel senso che è una piccola storia, nel senso che poi la storia, come tu sai, è un incipit che si ripete con tre esegesi diverse, no? Accompagnate da questa colonna sonora, e quindi la commissione è veramente potente. E io non so quello che pensi tu, però cioè, trovo che un film accompagnato da certe sonorità poi la differenza la fa, Dunque, io lo ricordo, era a Venezia in concorso, sono andato un po' a scavare e ho dato anche un'occhiata a qualche critica, diceva Federico, sì, diciamo che i critici italiani sono stati poco generosi, però invece in America la cosa è stata presa, specie da alcuni critici illuminati, abbastanza bene, con una, come dire, indulgenza da una parte e con molta curiosità dall'altra. Quello che hai detto tu è sicuramente è sicuramente vero, perché se parliamo di cinema, parliamo di movimento, parliamo anche di un cinema sonoro che rispetti la natura anche un po' di genere del film, e anche il discorso Sliding Doors, Rashomon, quello che volete, insomma, in qualche modo Ricomincio da capo, Il giorno della marmotta, insomma una serie di variazioni sul tema del tempo e dello spazio per i personaggi, con la corsa contro il tempo, come appunto il film non la corre, insomma, indica. Ecco, mi sembra che alla fine questo minestrone non fosse sciapo, anzi, che avesse poi il pregio di una brevità, perché 81 minuti, francamente, sì, ha detto forse Federico che riguardandolo non è un film capostipite, non è un film straordinario, però come hai detto tu, insomma, credo ci sia quell'unione di forze giovanili e creative che Ticco era all'epoca, avendo poco più di 30 anni, insomma, i suoi collaboratori hanno messo insieme, e soprattutto in alcuni momenti la colonna sonora era davvero spiazzante, perché non aveva il tema epico di certi film anche d'azione o di impianto più americano, hollywoodiano, eccetera. Aveva una sorta di partitura fluente, quasi fastidiosa in alcuni momenti, e in altri ti portava a ballare sulla sedia. Ma insomma, tu ce lo promuovi questo film o ce lo bocci come Crespi, che l'ha bocciato in tutte le sue parti? No, vuoi sapere se lo promuovo o lo boccio? Ma io ho la sensazione che dopo si sia bocciato da solo Ticquer, perché non abbia fatto granché, non abbia mantenuto queste premesse che anche nel film precedente, io lo ricordavo, Sognatore d'inverno, che era piccolo film che ricordavo di aver visto, insomma, eccetera, ma anche successivamente in pure International, quell'altro girato in Italia, insomma, ha avuto questo amore per l'Italia che non sempre gli ha portato bene. Però devo dire che Ticque si sta rimettendo forse in pista, so che ha dei progetti interessanti, dopo Cloud Atlas, che sarebbe il film dei Wachowski, di fratello e sorella ormai Wachowski, precedente a Jupiter, che è quello che è nelle sale adesso. Insomma, in realtà a questo film io gli diamo un bel voto, invece che fare le stellette diamogli i pianeti, gli diamo invece di 9 pianeti, anche se nel sistema solare se ne sono 10, gli diamo 6 pianeti. 2 anelli di Saturno. Senti, Maurizio, abbiamo cominciato con Alessandro Boschi la scorsa puntata per I Love Radio Rock. C'era Giona Nazzaro, però è con te che voglio cominciare anche una cosa, nel senso, mi piace chiedere anche ai nostri interlocutori quale idea hanno, per esempio, di cosa gli piacerebbe sentire per colonne sonore legate a film. Hai un'idea precisa tu in questo senso? Ma guarda, mi piace essere preso in contropiede. È chiaro che le cose che sono nell'immaginario di chi è vecchietto come me, ma anche chi ha qualche anno meno, un bel po' di anni meno come voi, insomma, parliamo del cinema dagli anni 80 in poi, 80, metà anni 80, eccetera, sono legate a colonne sonore portentose, quelle per i film ovviamente di Spielberg, di Lucas, piuttosto che le colonne sonore magnifiche di certi film di Scorsese, e poi andiamo ai binomi famosi Tsukamoto Burn per L'ultimo imperatore, andiamo a Morricone. Ma siamo sui classici, quindi. I grandi classici. E adesso che bisogna cercare però di mettere le manette a Alexander Desplat, che non faccia più di 7 colonne sonore all'anno, perché sennò siamo fritti. A proposito, parentesi, lo so che non c'entra un cavolo, ma l'avete notato che, divertente quella cosa, l'hanno notata tutti, Alexander Desplat prende il premio Oscar per la musica di Grand Budapest Hotel, e ci può stare, e lui era presidente di giuria che ha ignorato, non solo lui, evidentemente Birdman a Venezia, e non dandogli alcun premio, e dopodiché Birdman viene fuori come stravincitore a sorpresa dell'annata. Sono le incongruenze dell'industria. Io direi che invece bisognerebbe andare a lavorare, secondo me, sulle colonne sonore. Vi ricordate Piero Piccioni, Umiliani, Rizzortolani? Non voglio fare il Marco Giusti o il Quentino Tarantino della situazione, però ci sono molti film degli anni 70-80 italiani, quelli anche con sordi, Piero Piccioni, eccetera. Sono dei temi, forse potesse fare una trasmissione legata a questo tipo di musicisti italiani. Ortolani è scomparso da poco, Umiliani e Piccioni non ci sono da tempo, insomma, ci sono anche Servio Cipriani, ovviamente, lo stesso Pino Donaggio. Insomma, secondo me c'è da pescare, senza fare operazione nostalgia vintage del cavolo, c'è da pescare nel rapporto fra il cinema italiano popolare d'azione o di genere e questi musicisti che, non essendo Nino Rota, non erano ancora Piovani, non sono stati Morricone, ma sono stati veramente musicisti a un certo livello. Rimanendo in argomento, Maurizio, pensa che abbiamo cominciato con Il Grande Lebowski e c'era Piccioni in colonna sonora, per cui l'abbiamo... vedi che non lo sapevo, però Piccioni, da dire, attenzione, non Giuseppe Piccioni, il pur bravo regista di Fuori dal mondo del Grande Black, ma Piero Piccioni. Senti Maurizio, nel salutarci c'è anche un appunto... Siete d'accordo? Non so se anche lei è d'accordo, madame, se lei è d'accordo. Ottavia. L'Ottavia, lo so, ma l'Ottavia mi fa tanto di imperatrice romana. No, dico, Ottavia, sei d'accordo su questo? Un'idea buona o una caghetta, ho detto? No, è un'idea buona, noi ne prendiamo atto e ci studieremo la cosa e ti faremo sapere, così magari sarai di nuovo nostro ospite e ne potremo discutere insieme. Grazie, quindi ho capito che sarà nel 2021. Benissimo, chi mi volevi chiedere se... Maurizio, no, la settimana prossima con l'occasione ti inviterò nuovamente, però questa volta a Visionari, perché c'è un appuntamento martedì, lo vogliamo ricordare volantemente? Molto volentieri, siamo riusciti anche quest'anno con zero mezzi a fare come Lola Corre, avanti e indietro, ma siamo sindacato giornalisti cinematografici italiani, il direttivo, il gruppo di giornalisti che ci lavora a organizzare in Assi d'Argento per il documentario italiano, che più che un premio lo sono, per carità, sono una serie di focalizzazioni nei confronti di tanti lavori nell'anno che hanno riguardato non solo il cinema del reale, tout court, ma anche tutto quello che è importante che si fa di documentaristico attorno al mondo del cinema, proprio con l'argomento cinematografico, o di cultura. E quindi martedì 3 alla Casa del Cinema di sera e inviti, insomma, una cosa... Sta sicuramente in mondo visione quindi fino a qualche ci sarà questa serata breve ma essenziale, con anche alcuni premi già annunciati, premi speciali, che non vuol dire semplicemente che c'è un cinema del reale che si sta muovendo a vari livelli che si intersecano e che forse il mondo del DVD, dei festival, ha capito e ha conosciuto, che il mondo delle sale comincia, specie a Roma e in altre città, ad annusare, ma che bisognerebbe frequentare di più, per cui documentario non significa semplicemente qualcosa di che concerne i temi soliti come forse l'immigrazione molto sfruttati o altri temi storici o documentari, montaggio. Insomma, il mondo del documentario è articolatissimo. Nassi d'Argento del 3 marzo e ci sarà il modo di incontrare varie persone in quell'anno. Grazie Maurizio, ci sentiamo presto. E noi avremo... Quando mi fate fare pubblicità a me stesso diventa un problema. ciao. Ne avremo modo di parlarne giovedì a Visionari. Ciao Maurizio. Ciao. Vuole seguirmi per piacere? Un'altra puntata. Fate il vostro gioco, prego. We'll be right back. questo pezzo era Casino, interamente composto da Tommy Eckhart, e il prossimo pezzo lo voglio dedicare a un'amica, a una cara amica, una sorella, una compagna, una sostenitrice della radio, Alexandra, una sostenitrice anche di questa trasmissione che ci ha aiutato a, insomma, a divulgare, a farla conoscere. È un pezzo molto bello, è il mio preferito di questa colonna sonora, è Believe. There's nothing left but running here again. I don't believe in promise. I don't believe in chance. I don't believe you can resist the things that make no sense. I don't believe in silence, for silence it feels low. I don't believe in energy, if tension is too low. I don't believe in panic, I don't believe in fear. I don't believe in prophecies, so don't waste any tears. Tracce di Cinema a Radio Onda Rossa. Per sottoscrivere alla radio potete usare il conto corrente postale 61804001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185, Roma. E ciao a tutti, ci vediamo alla prossima puntata. Alla settimana prossima, sempre dalle 15 alle 16.